strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori. Dopo la Francia, anche la Spagna annuncia un piano di rilancio per l'automotive, settore messo in ginocchio dall'emergenza coronavirus. La Spagna, secondo paese europeo nella produzione di automobili, rischia per questo 2020 un crollo di mercato stimato tra il 40 e il 50%, che impone interventi rapidi e mirati. Alla luce di questo, così come comunicato dal Premier Sanchez nei giorni scorsi, si agirà tempestivamente sul potenziamento dell'elettrificazione, sullo stimolo agli investimenti e sul finanziamento delle imprese. E torniamo in Italia. È entrato in vigore dallo scorso 1° giugno l'obbligo di procedure telematiche per le operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e trasferimento di proprietà. A ricordarlo è una nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riferita alla riforma introdotta dal decreto legislativo 98-2017, quello che ha istituito appunto il documento unico di circolazione e di proprietà. Tra le operazioni coinvolte ci sono quelle di minivoltura, di radiazione per demolizione e per esportazione e quelle di rilascio del duplicato del documento. Enel X amplia la sua rete di strutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in, lo fa attraverso le nuove collaborazioni stipulate nell'ambito della piattaforma di mobilità elettrica Upjet. I clienti di Juice Pass, il servizio di ricarica del provider di energia elettrica, potranno infatti ricaricare le proprie auto senza ulteriori contratti anche nelle stazioni gestite da Allego, Bosch e Innogy, una sinergia che porterà Enel X da 10.500 ad oltre 30.000 punti di ricarica pubblici e che gli consentirà di operare in tutta Europa. Se ne parla già dall'anno scorso, ma è nel 2020 che l'alleanza per l'elettrico e l'innovazione tecnologica tra Volkswagen e Ford muove il suo passo più importante verso un'alleanza globale. Sono infatti stati approvati 3 importanti progetti da sviluppare in sinergia. Ascoltiamo la scheda. L'alleanza tra Volkswagen e Ford all'insegna dell'elettrico e della guida autonoma diventa sempre più salda. Dopo l'annuncio di partnership dello scorso anno, infatti, il consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen ha approvato nuovi progetti nell'ambito della collaborazione con Ford Motor Company, i cui accordi definitivi saranno firmati a breve. Oltre all'investimento in Argo AI, l'azienda specializzata in piattaforme per la guida autonoma, la collaborazione, incentrata in una prima fase sull'elettrificazione e sui veicoli commerciali leggeri, si strutturerà in 3 importanti progetti, tra cui l'utilizzo della piattaforma modulare MEB del gruppo Volkswagen per un veicolo elettrico Ford destinato al mercato europeo. Saranno implementati 2 ulteriori programmi. Volkswagen Veicoli Commerciali sarà responsabile per lo sviluppo di un city van, mentre Ford supervisionerà la pianificazione di un veicolo nel segmento da 1 tonnellata. La collaborazione tra le due case va dunque avanti e si configura sempre più come l'occasione per creare prodotti nuovi ed efficienti, condividendo i costi di sviluppo e le energie produttive. E continuiamo ad occuparci di mercato, cerchiamo di capire com'è andato questo mercato automotive nell'ultimo mese di maggio. Lo facciamo in compagnia del nostro ospite, che è Gianmarco Giorda, direttore di Anfia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo proprio dal mercato italiano. Com'è andato questo maggio che si è chiuso da pochi giorni? È stato un mese di ripresa, seppur parziale, o dobbiamo davvero preoccuparci? Dobbiamo preoccuparci, e tanto, perché abbiamo avuto un calo a maggio del 50% rispetto al maggio dello scorso anno, ma ricordiamo che arriviamo da 2 mesi, marzo-aprile, dove sostanzialmente le vendite si sono azzerate per il fatto che i concessionari chiaramente erano chiusi. Quello che però più ci preoccupa è che a maggio abbiamo registrato un calo significativo degli ordini, per cui questo ci fa pensare che nei prossimi mesi il mercato sarà ancora in fortissima sofferenza. D'altra parte è anche giustificabile questo dato per il fatto che c'è un potere d'acquisto che è calato, molte persone hanno altri pensieri, altre priorità, che cambiare l'automobile, certo, in questo momento. Nel corso delle ultime puntate abbiamo parlato della Francia, per esempio la scorsa puntata, della Spagna all'inizio della puntata di oggi, abbiamo analizzato come alcuni paesi europei si stiano muovendo in modo importante per quanto riguarda il settore dell'automotive. Questo ha un riflesso sul mercato, come sta andando negli altri paesi europei? Ma devo dire che in questi 2-3 mesi anche nei principali mercati europei il dato sull'immatricolazione è molto negativo, per cui in generale tutti i paesi stanno soffrendo molto, qualcuno un po' meno perché i concessionari sono stati aperti di più rispetto all'Italia, però ecco, c'è un clima generale di grande preoccupazione, però come dicevi giustamente tu, alcuni paesi, alcuni governi si stanno muovendo per cercare di contrastare questa domanda flat, per esempio la Francia da poco ha varato un piano poderoso da 8 miliardi di euro, la Spagna lo fa nei prossimi giorni e anche la Germania, da quello che sappiamo, si sta muovendo in questa direzione, per cui rischiamo di essere l'unico paese tra i principali paesi appunto europei a non avere delle misure significative sia per la domanda ma anche poi nei prossimi mesi anche per gestire la transizione della filiera verso le nuove tecnologie. Certo, a questo proposito siamo in fase di dibattito per la conversione in legge del decreto rilancio. Il ministro per lo sviluppo economico Patuanelli a più riprese ha detto che in questa fase, in questa sede, c'è spazio ancora per inserire qualche provvedimento specifico sul settore dell'automotive. Quali sono le vostre aspettative? Ma noi abbiamo un'ottima interlocuzione col governo, però ci aspettavamo che già nella prima versione del decreto rilancio ci fossero più misure per il settore, al di là del rifinanziamento dell'ecobonus, che è ovviamente una misura che noi accogliamo con favore, 100 milioni quest'anno, 200 per il prossimo, però ecco, non siamo sicuramente soddisfatti perché è necessario intervenire in maniera più massiccia, ad esempio aumentare la soglia anche delle alimentazioni delle automobili da incentivare da 61 a 95 grammi CO2, piuttosto che fare qualcosa per lo stock, che oggi è un problema importante per l'Italia perché sui piazzali ci sono oltre 400.000 vetture invendute, e poi una misura anche per i veicoli commerciali leggeri, che è un altro settore che sta soffrendo molto in questi mesi. C'è un tema, quello delle auto aziendali, ne abbiamo parlato a più riprese anche prima dell'emergenza coronavirus. L'Italia è un po' indietro rispetto agli altri paesi per il riconoscimento dei benefit su questo tipo di auto. Potrebbe essere questa una ulteriore soluzione per rilanciare questo mercato? Sì, ad esempio sulle auto aziendali noi abbiamo una fiscalità che è in deciso svantaggio rispetto a tutti i paesi europei. Quello che noi a più riprese abbiamo richiesto, ed è un qualcosa che contiamo di riproporre magari anche nei prossimi mesi, è una completa detraibilità dell'IVA, che oggi appunto crea un unicum e un vulnus in Italia rispetto agli altri paesi europei. In queste settimane, anzi in questi giorni, dal 3 giugno l'Italia è ripartita completamente, si sono intensificati i viaggi in autostrada, l'utilizzo dell'automobile, degli altri mezzi di spostamento. C'è una convinzione abbastanza diffusa che nella distribuzione modale dei passeggeri l'auto abbia sempre di più un peso rilevante, un po' per paura del contagio, un po' per comodità probabilmente. Siete d'accordo con questa posizione? Assolutamente sì, siamo assolutamente convinti che continuerà l'automobile nei prossimi mesi, nei prossimi anni a giocare un ruolo importante nella mobilità appunto individuale, però è necessario, come dicevo prima, che venga supportato il mercato. Accogliamo con favore anche gli interventi sulla micromobilità, dalle biciclette ai monopattini, però occorre tenere in considerazione che il settore automotive in Italia da occupazione a oltre 1 milione di persone ed è comunque il settore trainante per la manifattura, per cui se non si fa nulla, veramente l'ultimo grido d'allarme che lanciamo, rischiamo di perdere dei pezzi importanti della nostra industria, con chiaramente poi una conseguenza anche a livello sociale importante, con il rischio di lasciare a casa migliaia di persone. Questo assolutamente da evitare, perché una volta che si perdono dei pezzi di industria comunque in un paese è difficile poi recuperarli, per cui occorre agire subito e in maniera anche poderosa. Certo, 1 milione di lavoratori, migliaia di imprese, l'ANFIA rappresenta proprio la filiera dell'automotive italiana e quindi non è un caso se si è fregiata nel suo logo in queste ultime settimane della bandiera italiana. Chiudiamo con questa nota di colore, una scelta definitiva o legata al momento? Ma ci stiamo pensando, sicuramente un gesto che voleva in qualche modo accomunare anche l'ANFIA al momento difficile che tanti italiani appunto stanno vivendo, era un modo anche per manifestare solidarietà a tutto il paese e far presente che noi come settore siamo un settore importante e vorremmo comunque giocare un ruolo importante ancora nei prossimi anni, magari diventerà questo logo anche non solo temporaneo ma in maniera stabile lo utilizzeremo anche nei prossimi anni. Certo. Bene, salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA. Termina qui la prima parte di Strade e Motori, ci risentiamo tra pochi minuti per parlare di un'interessantissima sperimentazione che è partita questa settimana a Torino. A tra poco. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie. In bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Devi accettare il passo che lei ti detta, il passo che il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente in quel momento possono darti. Ci sei tu, la tua sfida. Dove arrivi te lo sei sudato. Qualunque sia il vostro ritmo o la vostra meta, c'è sempre una bici adatta, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova o per tornare bambini. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica, ogni domenica alle 16 con A Ruota Libera su Radio 24. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo oggi di una interessante sperimentazione che partirà presto a Torino e che è stata presentata questa settimana, una sperimentazione che consentirà alle autovetture, in particolare quelle di FCA, di entrare nei centri storici, nelle ZTL, attivando automaticamente la modalità elettrica, ovviamente se si tratta di vetture ibride. Una sperimentazione della quale parliamo in compagnia dei nostri ospiti, Rossella Panero, direttore generale di 5T. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. E con Roberto Di Stefano, che è il responsabile della e-mobility per FCA per Europa, Medio Oriente e Africa. Buonasera, grazie anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, dottoressa Panero, ci cominci innanzitutto a definire, a descrivere questo servizio. Perché il Comune di Torino, di cui voi vi occupate ovviamente dell'aspetto legato alla mobilità, ha deciso di attivare questa sperimentazione? Certamente, volentieri. Il Comune di Torino ha deciso di attivare questa sperimentazione perché può basare la sperimentazione sull'infrastruttura tecnologica ITS, la dotazione di 5T della città di Torino che da 20 anni è stata sviluppata e che è già dotata di una componente di comunicazione tra i veicoli circolanti e la nostra centrale operativa della mobilità. Questa sperimentazione quindi permetterà alla città di avere un supporto nella gestione del controllo accessi alla ZTL e avrà anche dall'altro lato l'obiettivo di supportare FCA per fornire agli automobilisti servizi informativi automatici per anche migliorare magari la loro esperienza di transito nelle aree ad accesso limitato. Quindi da un lato l'obiettivo della città, della mobilità sostenibile, della gestione della domanda di mobilità e dall'altro la possibilità di dare agli automobilisti e al traffico veicolare dei servizi di agevolazione. Certo. Di Stefano, chiedo scusa, come funziona questo servizio? Cioè, cosa succede a bordo di un'auto, di una vostra auto, avete usato delle Renegade se non sbaglio per queste sperimentazioni, quando entra nella ZTL? Ma guardi, noi abbiamo usato intanto l'ultima nata o quasi nata, perché tra poco sarà venduta sul mercato, una Renegade plug-in hybrid, e dunque un veicolo che ha la presenza a bordo sia di un motore a combustione che di un motore elettrico. Dunque, ciò che avviene in pratica a questi veicoli che approssimandosi al gate d'ingresso della ZTL, il gate elettronico, il sistema di geolocalizzazione del veicolo rileva appunto il gate, trasmette al veicolo stesso un segnale di necessità di guida a zero emissioni e automaticamente avvisa il conducente e automaticamente passa alla modalità di trazione puramente elettrica, zero emissioni, dentro la zona ZTL. Inoltre, qualora per un motivo vario il conducente decidesse di tornare alla modalità combustione, automaticamente il sistema intanto avvisa il conducente che è un'azione non permessa in quella zona, e se dopo X tempo, che appunto fase della sperimentazione insieme a 5T, il conducente non ritorna alla modalità elettrica, quella permessa, automaticamente viene trasmesso un segnale dal veicolo al nostro cloud e dal nostro cloud FCA direttamente alla piattaforma 5T. E dunque la città o chi gestisce per la città, certo, gli accessi alle zone automaticamente è informato di un'infrazione. Con caso, ovviamente, il nominativo del trasgressore, il numero di targa, insomma è quasi possibile mettere una multa in tempo reale sostanzialmente. In tempo, adesso le multe non fanno parte del, certo, ovviamente, campo, del vostro core business, però sicuramente mi sembra 5T ovvio. Riceverà una stringa dati con la possibilità di intervenire il veicolo. Chiaramente. Ecco, allora giro questa domanda a Rossella Panero. Che cosa succede quando vi arriva questa informazione? Il scopo della sperimentazione è proprio capire tutte queste cose, come poter mettere in piedi le procedure, i servizi che potranno essere utili proprio anche in questi casi. Quindi da un lato anche raccogliere dati ed elementi per far sì che questa sperimentazione che parte a Torino possa essere magari esportata poi in altre città, perché come sappiamo certamente i veicoli e gli automobilisti che li utilizzano possono girare ovunque in tutte le città, e quindi fare in modo che questa sperimentazione di Torino possa diventare una best practice anche applicabile in altre città, come per esempio è già successo per il protocollo di scambio dati che verrà utilizzato in questa sperimentazione e che è già stato riusato da altre città come Bologna, Firenze e così via. Quindi lo scopo della sperimentazione è anche questo. Certo, del resto Torino da sempre è capofila sulla sperimentazione legata alle tecnologie applicate all'automotive, a cominciare dalla stessa guida autonoma. Siete uno dei pochi centri dove viene sperimentato in Italia appunto questo tipo di meccanismo. Di Stefano, c'è bisogno di un adattamento particolare su queste auto o sono sostanzialmente già predisposte per un servizio del genere? Le nostre auto sono tutte predisposte con una connettività avanzata, per cui in questo momento, in questa fase pilota, proprio per evitare di per avere la chiarezza della gestione di questo tipo di cui stiamo parlando, abbiamo previsto un sistema, un tablet aggiuntivo sul veicolo, solo per avere chiarezza della sperimentazione, certo, pura. Una volta affinata, appunto, messa a punto, come diceva la dottoressa Panero, le calibrazioni di questa trasmissione dati, tutto sarà integrato nel sistema autoveicolare, dunque nel quadro di bordo che il cliente ha di serie sul veicolo, Jeep Renegade in questo caso. Ecco, possiamo immaginare quindi che in futuro tutte le plug-in FCA saranno dotate di questo sistema? Ma questo è il nostro obiettivo, dare al cliente la possibilità, qualora lo volesse, di avere il veicolo con questa dotazione di bordo, per poter accedere appunto a zone che può essere che in futuro siano sempre più ristrette al traffico tradizionale e magari permesso solo un traffico a zero, certo, emissioni. Quindi questo è l'obiettivo appunto della sperimentazione. E purtroppo è una previsione abbastanza condivisa. Dottoressa Panero, in che cosa consisterà questa sperimentazione? Cioè quanto durerà e quando pensate poi di tirare le somme e di capire quanto è applicabile nella città? La sperimentazione durerà fino alla fine dell'anno sicuramente, noi ci auguriamo quindi per fine anno di poter avere degli elementi già di risultato di questa sperimentazione, poi non escludiamo la possibilità magari di proseguire se i partner della sperimentazione saranno tutti d'accordo. Come diceva il dottor Di Stefano, è una sperimentazione che può fornire anche importanti elementi per quelle che sono le policy di gestione della domanda di mobilità da parte delle città. Quindi secondo me dobbiamo cercare, facendo una squadra come è per questa sperimentazione, di raggiungere gli obiettivi di tutti gli stakeholder che partecipano alla sperimentazione. Cosa vi aspettate da questa sperimentazione in termini di riduzione delle emissioni all'interno delle ZTL? aspettiamo sicuramente una capacità di valutare l'impatto all'interno della ZTL del passaggio dall'utilizzo del motore classico al motore elettrico, e quindi una capacità di elaborare dei dati che ci consentano di capire il contributo al miglioramento della qualità dell'aria che può essere ottenuto attraverso appunto questi meccanismi. Già in passato abbiamo fatto valutazioni sul miglioramento della qualità dell'aria che si può ottenere con la semplice fluidificazione del traffico, quindi evitando le code ai semafori, avendo dei sistemi TS evoluti di gestione e controllo del traffico. Quindi ci aspettiamo adesso di essere nel vivo di una nuova fase di controllo non solo del traffico ma della domanda di mobilità, e in particolare ci aspettiamo appunto elementi che ci rendano capaci di valutare questo impatto. Certo. Dottor Di Stefano, siamo in chiusura. Il segmento e-mobility di FCA è particolarmente attivo in questi ultimi mesi. State lavorando, se non sbaglio, anche ad un'ipotesi grid, cioè alla possibilità di scambiare energia fra auto e rete e viceversa, ovviamente. Sì, noi siamo partiti, siamo in fase ormai di realizzazione della prima fase di un impianto pilota, anche in questo caso vehicle to grid, sempre a Torino, nel nostro plant di Mirafiori. Il pilota ovviamente è una partnership a tre, anche in questo caso con Terna e Engie EPS. L'obiettivo è validare l'asset autoveicolare elettrico come un asset capace di interagire con la rete per offrire servizi ancillari di stabilizzazione della rete stessa. Sappiamo tutti che la rete, all'aumentare delle fonti rinnovabili, ha sempre più questo problema di stabilizzazione, e dunque l'autoveicolo in futuro potrà essere un asset importante proprio per garantire alla rete stabilità e dunque sicurezza nazionale. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo i nostri ultimi due ospiti, Rossella Panero, direttore generale di 5T Torino, Roberto Di Stefano, responsabile e-mobility per FCA Regione IMEA. L'appuntamento con Strade e Motori torna, come al solito, sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.